sabato 11 novembre al Papido Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Volete mandare i vostri sms? 333 64 67 662. Ciao G. Hola, pota. Sono Giovo del forum. Volevo dedicare il tuo remix di More to See a tutti quelli che come me hanno deciso di cambiare la propria vita e guardare oltre. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Qualche protesta varia. Sì, sì. Non è giusto che le banche prendano da tutti, anche dai più deboli. E poi il mutuo lo danno solo se sei come dicono loro. Non va bene così. Un'ingiustizia è non poter ascoltare musica in classe. È vero, è vero. Dicono che disturba la prof che spiega. Cioè, Zazza da Udine. Gigi, devo fare soldi. Come si fa? A lavorare, tutti, forza. Lino. I never did a fact. What? Never give a damn about crack. What? Drama. I never did. Il cammino di Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Oh, ma sto pezzo? Vai di cassa. Cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18. Cammino di Gigi D'Agostino presenta Halloween Elettronico 2006, quinta edizione. Musica e ritmi ideati, creati e suonati da Gigi D'Agostino. Halloween Elettronico 2006. Domani sera, presso il campo sportivo di Iragna, Canton Ticino, Svizzera. È un evento, già lo sento. D'Agostino. Musica che unisce. Scrivermi 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Ma che sentieri percorriamo? Tutti insieme, ogni giorno, alle 18. Ciao Gigi, sono Santi da Messina. Dedica una canzone a Graziella, la mia futura moglie.

una grande famiglia danzante. E poco sta cassa. Il 30 ottobre 1960 nasce Diego Armando Maradona, calciatore. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso. Ma questo è il mio universo. Ti ascolto mentre scrivo la mia tesi di laurea. Tese. Puoi mettermi un pezzo Tamarro e dedicarlo a tutti i tuoi fan siciliani? Sì. Stefano da Milazzo. Mo s'attaccamo tutti al ca... Non siamo al reparto olive. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento, violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, signore e signori, dirige D'Agostino. M2O. Ho inventato un congegno da applicare sulle moto e sul casco. Ti spiego meglio. Le case costruttrici di moto, adottando questo brevetto, proteggono la vita dei motociclisti. Perché? Perché appunto? Perché con questo congegno, quando cavalchi la moto, se non hai il casco, la moto non parte. Non si avvia. Aiutatemi a farlo conoscere al mondo. E basta chiedere, io sono qua apposta. Francesco Laina, o Francesco Laina, da Lamezia Terme. Amo Sabrina. No. La musica non può mai svelare il suo segreto più nascosto. Oscar Wilde. La finestra e il mio cuore. Il sole ha inondato la camera e l'amore ha pervaso la mia anima. Tratto da Una roba bella di Paulo Coelho. Paulo, quello che scrive. Gigi, sono Cosino da Cosenza. A Coso? No, poi magari è Cosimo, però qua c'è scritto così. Vorrei dedicare una canzone sull'amicizia ad Emilio e Marco, i miei migliori amici. Se volete scrivermi 333-64-67-662. Bye. sento, non ho tempo. Mi chiudo nell'armadio e ascolto la mia radio. E se lei poi urla perché sente che non sento, la chiudo nell'armadio ma esco con la mia radio. Piccola Lucrezzina, a distanza di quasi 3 anni ti dico che un amore tenero, dolce e speciale come quello che provavo per te non lo proverò mai più. Sei ancora parte del mio cuore, della mia mente e della mia anima. Il tuo dolce Arkan. Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Appuntamento calabrese. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello sabato 11 novembre al Papido Fashion Club, Corigliano Calabro, Cosenza. Fermiamo quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Io gioco con la musica, mi diverto con la musica. Gioco, gioco con la musica. Cammino di Gigi D'Agostino. C'era una volta un bravo dottore, amava i lamponi e leccava le more. Suonava le storie con anima e core, ma era imperfetto e viveva in errore. Elettronico 2006, quinta edizione, presso il campo sportivo di Ragna, Canton Ticino, Svizzera. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. Potete far sentire la vostra voce. 333-64-67-662. Se hai l'impulso, mi scrivi. Se no, desisti. Alla nostra nipotina Rebecca. 20 sono i mesi. 20 le parole per dimostrarti tanto amore. Dedicata dai due zii Mirko e Mike, nonna Margherita e Giovanni, poeta narratore. Like a river that goes to the sea, this is the way that it has to be. E colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Giovanni 34 da Ro, Jessica di Vapiro Dadda, Jessica, Luigi di Napoli, mamma Rosaria, papà Antonio e figli Lenia e Mattia dalla provincia di Lecce. Ma ciao proprio, una salutata generale qua. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Il cammino di Gigi D'Agostino. Quasi il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Cari mamma e papà, oggi il vostro amore compie 35 anni. Nonostante i 1300 chilometri che ci separano, il vostro sguardo pieno d'amore e le vostre parole piene di orgoglio ogni giorno mi sostengono e mi fanno sentire fiero di me stesso. siete voi, con i vostri immensi sacrifici, gli unici realizzatori di questo mio sogno. Spero che Gigi oggi, mettendo l'amour toujours e leggendo questo SMS, vi trasmetta tutto l'amore che provo per voi. Vito. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Soldato Maria. È dura essere donna e militare insieme. Se tornassi indietro, tornerei ad essere la ragazza che ascoltava l'amour toujours. Me lo fai ascoltare questo salto nel passato? Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Saluta tanto tanto tanto tanto.